Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. La compagnia La Casa d'Argilla presenta il melologo dal libro Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Adattamento Roberto Scarpetti. Drammaturgia musicale Gianluca Ruggeri. Disegno sonoro Pasquale Citera. Voci di Arianna Gaudio, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Alice Palazzi, Stefano Scialanga. Percussioni Gianluca Ruggeri. Pianoforte Ivano Guagnelli. Percussioni Gianfranco Vozza, Carol Di Vito. Aiuto regia e coordinamento Matteo Finamore, Martina Massaro, Caterina Piotti, Francesco Cecchi Aglietti. Era un piacere bruciare tutto. Era un piacere particolare vedere le cose divorate, annerite, trasformate. Sulla mia testa l'elmetto con la cifra simbolica 451, mentre i miei occhi fiammeggiavano d'arancio al pensiero di quello che stava per succedere. Azionato l'accenditore, fece esplodere la casa in un fuoco devastante, rosso, giallo e nero. E poi mi incamminai in uno sciame di lucciole mentre le pagine sbattevano come ali di uccelli moribondi e i libri salivano in vortici di scintille nel vento nero del rogo. Poi, tutti a bordo della grande salamandra, tornammo alla centrale. Appesi l'elmetto e lo lucidai, quindi sistemai con cura la giacca ignifuga, feci una doccia e alla fine, fischiettando, mi calai dalla pertica. Nelle ultime notti, la passeggiata per tornare a casa alla luce delle stelle mi aveva procurato strane sensazioni, come se qualcuno mi avesse aspettato in silenzio e si fosse tramutato in un'ombra che scompariva al momento del mio passaggio. Quella sera mi sembrò di sentire un leggero profumo. Le foglie autunnali frusciarono sul marciapiede illuminato dalla luna e la ragazza mi sembrò inchiodata su una strada in movimento, in balia del vento. Il suo viso era snello, bianco latte e sembrava osservare ogni cosa con una punta d'ansia gentile, di instancabile curiosità. Aveva sicuramente notato il simbolo della salamandra sulla mia divisa. Salve! Lei deve essere la nuova vicina. E lei deve essere il pompiere. L'ha detto in modo strano. L'avrei capito a occhi chiusi. Per l'odore di kerosene? Mia moglie si lamenta sempre, ma per quanto ci si lavi non va mai via del tutto. Per me invece il kerosene è soltanto un profumo. Davvero? Certo, perché no? Le dispiace se faccio la strada con lei? Mi chiamo Clarisse McLellan. Guy Montag. Che cosa fa in giro a quest'ora? Quanti anni ha? Ho 17 anni e sono pazza. Mio zio sostiene che le due cose vanno insieme. Quando la gente ti chiede l'età, tu rispondi 17 e aggiungi che sei pazza. Così ha detto. Non è un'ora ideale per passeggiare, anche se è buio. A me piace annusare, guardare le cose. A volte sto alzata e cammino tutta la notte aspettando che sorga il sole. Sa, io non ho affatto paura di lei. E perché dovrebbe? Tanta gente vi teme. Cioè, teme i pompieri. Ma lei, dopo tutto, è solo un uomo. Mi vedi rispecchiato nei suoi occhi. Ritratto nei minimi particolari, le pieghe intorno alla bocca e tutto il resto. Come se gli occhi della ragazza fossero due pezzetti d'ambra violetta che avevano il potere di catturarmi e conservarmi intatto. Posso chiederle da quanto tempo fa il pompiere? Da quando avevo 20 anni, tanto tempo fa. E ha mai letto uno dei libri che ha bruciato? È contro la legge. Oh, già, certo. Guardi che è un buon lavoro. Lunedì bruci Borges, mercoledì Maupassant, venerdì Whitman. Bruciali tutti e poi brucia le ceneri. È il nostro slogan ufficiale. Ma è vero che molto tempo fa i pompieri spegnevano gli incendi invece di appiccarli? No, le case sono sempre state a prova di fuoco. È strano. Io ho sentito dire che un tempo le case bruciavano accidentalmente e c'era bisogno dei pompieri per spegnerne le fiamme. Perché ride? Non lo so. Eppure non ho detto niente di buffo. È che lei è strana. È solo che mi piace osservare la gente. Ha mai osservato le autojet che corrono sui viali? Non cambia argomento. A volte penso che quegli automobilisti non sappiano proprio cosa siano l'erba o i fiori. Perché non li hanno mai osservati lentamente. Se gli mostro una chiazza verde, allora dicono sì, sì, quella è erba. Una macchia rosa? Un giardino fiorito. Le chiazze bianche sono case. Quelle scure sono vacche. Una volta mio zio cominciò a guidare piano. Eravamo sull'autostrada. È arrivato a 60 km orari. Lo misero in cella 2 giorni. Non è una cosa divertente e anche triste? Lei pensa troppe cose. E che non guardo la tele soggiorno. Non vado alle corse. E nemmeno ai parchi dell'evasione. Forse è per questo. Scommetto che lei non sa tante altre cose. Al mattino c'è la rugiada sull'erba. E se guarda lassù, vedrà che c'è un uomo sulla faccia della luna. Facemmo il resto del tragitto in silenzio. E quando arrivammo a casa della ragazza, tutte le luci erano ancora accese. Che succede qui? Niente. Sono solo i miei genitori e mio zio che parlano in salotto. Sa, siamo molto strani a casa mia. E di cosa parlate? Buonanotte. Lei è felice. Sono cosa? Era da tanto tempo che non guardavo la luna. Infilai la mano nel manicotto dell'ingresso e lasciai che mi esaminasse i polpastrelli. La porta si aprì di scatto, ma certo che sono felice. Perché non dovrei? Fermo, in soggiorno, guardavo la griglia dell'areatore, sapendo che lì dietro era nascosto qualcosa che ora pareva fissarmi. Che strano incontro. Che strana notte. Quanto era durata quella passeggiata? 3 minuti, 5? Sembrava un tempo lunghissimo. Adesso che ci penso, mi aspettava per strada a quell'ora della notte. Aprì la porta della stanza da letto e rimasi in ascolto. Il delicato ronzio di una zanzara nell'aria, il mormorio elettrico di un'ape, una musica, il cui motivo era appena percettibile. No, non sono felice. Senza il bisogno di accendere la luce, sapevo come si presentava la stanza. Mia moglie, sdraiata sul letto, fredda e scoperta, gli occhi fissi al soffitto, nelle orecchie le piccole conchiglie, mini radio compatte che trasmettevano un oceano di suoni elettronici, musica e parole che approdavano sulla riva della sua mente insonne. Un attimo prima di colpire con il piede l'oggetto sul pavimento, capii che l'avrei urtato. Presi l'accendino, una rapida pressione, uno scatto e accesi la fiammella. Mildred. Il viso era come un'isola coperta di neve su cui cadeva una pioggia insensibile. L'oggetto che avevo urtato brillava sotto il bordo del letto, il flacone con le pillole per dormire che la luce della fiammella era vuoto. Mi sentii tagliare in due il petto, spaccato da colpi d'accetta. I bombardieri jet volavano sulla città urlando e io sentii la mia mano correre verso il telefono. Pronto soccorso! Avevano due macchine. Una entrava nello stomaco del paziente come un cobra nero e aspirava la materia verde che tornava alla superficie. L'operazione non era diversa dallo scavo di una buca in giardino e Mildred, distesa sul letto, non era che uno strato di marmo in fondo alla fossa. Vai avanti, spalla la noia, accumula i detriti del vuoto. La seconda macchina, invece, pompava il sangue dal corpo e lo sostituiva con sangue nuovo. Non serve a niente lavare lo stomaco se non si pulisce anche il sangue. I due operatori se ne andarono dopo avermi detto che Mildred se la sarebbe cavata e io mi sedetti in poltrona a guardarla. Aveva gli occhi chiusi adesso e io allungai la mano per sentire il tepore del suo respiro sul palmo. Siamo miliardi e siamo troppi. Nessuno conosce nessuno, entra un estraneo e ti rivolta come un guanto, ne arrivano altri e ti cacciano il cuore dal petto e alla fine ti prendono il sangue. Ora il sangue di Mildred era fresco e sembrava che l'avesse rinnovata. Aveva le guance di un rosa acceso, le labbra piene, colorite, morbide. Il sangue di qualcun altro. Se solo le avessero messo la carne, il cervello, la memoria di qualcun altro. Mi alzai, tirai le tende, aprii la finestra per far entrare l'aria della notte. Dalla casa di Clarisse, oltre il prato, venivano le risate di suo padre, sua madre e suo zio. E avevano l'aria di passarsela bene in un'atmosfera pacifica e allegra. Uscii dalla porta finestra e attraversai il prato. Una goccia di pioggia. Clarisse. Un'altra goccia. Mildred, una terza, lo zio, una quarta, l'incendio di stanotte, uno, Clarisse, due, Mildred, tre, zio, quattro, incendio, uno, Mildred, due, Clarisse, uno, due, tre, quattro, Clarisse, Mildred, zio, incendio, pillole per dormire, fazzoletto, soffiati il naso, buttalo via, scarica, Clarisse, Mildred, zio, incendio, fazzoletto, buttalo via, scarica, uno, due, tre, uno, due, tre, pioggia, temporale, tuono, fuoco che sprizza da un vulcano, tutto precipita ruggendo in un fiume che corre verso il mattino. E io non so nulla, nulla, di nulla. Alle 9 di mattina il letto di Mildred era vuoto. Mi alzai in fretta con il cuore che mi batteva forte. Corsi in sala e mi fermai davanti alla porta della cucina. Stai bene? Non sto perché ho tanta fame. Stanotte non ho dormito bene e mi sento uno schifo, però Ho fame, non riesco a capire. Stanotte... Stanotte che... cosa? Non ricordi? Abbiamo dato una festa. Mi sento in hangover e ho fame. Chi è venuto? Qualcuno. Sì, è quello che pensavo. Mi fa male lo stomaco, ma... ho una fame da lupo. Spero di non aver fatto sciocchezze alla festa. Stanotte hai inghiottito tutte le pillole. Ma no, non lo farei mai. La boccetta era vuota. Sì, non farei mai una cosa simile, perché dovrei? Forse... è che forse hai preso due pillole e l'hai dimenticato, poi ne hai prese altre due e hai dimenticato ancora. Ma ormai eri così offuscata che hai continuato a inghiottirle 30-40. Perché avrei fatto una sciocchezza simile? Io non lo so. Scusami. Oh, sta per cominciare una commedia parete a parete. È appena arrivata la mia parte per posta. La conduttrice, che in questo caso sarei io. Inventa quello che deve dire nei punti lasciati in bianco. Quando arriva il momento delle battute in sospeso, gli altri mi guardano dalle tre pareti. E io dico quello che ho pensato. Ma non ti pare divertente? Di cosa parla la commedia? Ci sono tre personaggi, Bob, Ruth e Ellen. È molto divertente e sarà ancora più bello quando potremo permetterci la quarta parete. Quanto dovremo aspettare ancora per abbattere il muro? E installare lo schermo? Costa solo $2,000. Non abbiamo soldi, Mildred. Costa solo $2,000. E penso che ogni tanto dovresti prendere in considerazione i miei bisogni. Se avessimo... la quarta parete? Sarebbe come se la stanza non fosse più soltanto nostra. E io mi sentirei completamente nella famiglia. Potremmo rinunciare a qualcos'altro. Ma la terza parete l'hanno installata solo 2 mesi fa. Solo? Mi appuntai il distintivo con la salamandra arancio fiammante e uscii. Uscii di casa lasciando Mildred tra le pareti accese del soggiorno. La pioggia si era fatta più sottile. E la ragazza camminava al centro del marciapiede con la testa buttata all'indietro, mentre poche gocce le cadevano sul viso. Salve. Cosa fa di bello? Sono sempre pazza. La pioggia è buona, mi piace camminarci sotto. Ha perfino un buon sapore. Che cos'è quello? L'ultimo dente di leone di quest'anno, almeno credo. Non pensavo di trovarne ancora. Ha mai provato a strofinarselo sul mento? Guardi, eh. Se lascia la macchia significa che sono innamorata. L'ha lasciata? Allora? Al mento giallo. Benissimo. Adesso provi lei. No. Con me non funzionerà. Tenga. Allora? Che peccato. Lei non ama nessuno. No, invece sì. Non si vede. Ma io sono molto, molto innamorato. Per favore, non faccia così. No, hai i denti di leone. L'ha usato tutto per lei ed ecco perché non funziona con me. Certo. Deve essere per questo. Mi scusi, l'ho fatta agitare. Non volevo. No. Sto bene. Dica che mi perdono. Non voglio che sia arrabbiato con me. Non sono arrabbiato. Scombussolato. Ecco. Devo andare. Devo vedere il mio psichiatra. Vuole rimettermi in carreggiata, ma io invento tutte le cose che gli dico. Dice che sono come una cipolla e io lo tengo occupato a sbucciare vari strati. Io comincio a credere che lei abbia davvero bisogno dello psichiatra. Non dirà sul serio. No, non dico sul serio. Lo psichiatra vuole sapere perché esco, perché faccio escursioni nella foresta, guardo gli uccelli o raccolgo farfalle. Vuole sapere cosa faccio del mio tempo. E io rispondo che a volte me ne sto seduta. E penso, ma non dico a cosa. A volte dico che tiro indietro la testa così e mi faccio piovere in bocca. Al sapore del vino, ha mai provato? Lei ha detto di avere 17 anni. Beh sì, il mese prossimo. Che strano. Mia moglie ne ha 35, ma lei mi sembra molto più grande a volte. Anche lei è strano, signor Montag. Ci sono momenti in cui dimentico che è un pompiere. In che modo è entrato nel ramo? Vorrei sapere come ha scelto il suo lavoro. Ci ha riflettuto? Lei non è come gli altri. Ne ho visto qualcuno, lo so. Quando le parlo, lei mi guarda. Nessuno ha più tempo per gli altri. Per questo dico che è così strano che lei sia un pompiere. Sarà meglio che vada al suo appuntamento. E la ragazza andò via di corsa e mi lasciò da solo nella pioggia. Il segugio meccanico dormiva e non dormiva, viveva e non viveva, ma nel casotto in fondo alla caserma vibrava leggermente mentre un raggio di luce che pioveva dal cielo sfiorava il rame e l'acciaio della bestia tremante. Dei riflessi lampeggiavano sui sensibilissimi peli di nylon delle narici della belva che agitava debolmente 8 zampe di ragno dalle punte di gomma. Le nuvole si erano diradate. Mi accesi una sigaretta e tornai sui miei passi e mi chinai sul segugio. Nelle notti in cui ci annoiavamo, cioè ogni notte, attivavamo le combinazioni automatiche del suo sistema olfattivo. Liberavamo qualche ratto, a volte polli, gatti, e scommettavamo su chi avrebbe afferrato per primo. Gli animali venivano liberati e 3 secondi dopo il topo, il gatto o il pollo si ritrovavano nella zampa della bestia meccanica, mentre un ago d'acciaio lungo 10 centimetri, sceso dalla proboscide del segugio, iniettava massicce dosi di morfina o procaina. Toccai il muso del segugio e lui brontolò. E io feci un balzo all'indietro, la belva si alzò e mi guardò con un lampo verde-azzurro nei bulbi oculari improvvisamente attivi. Il ruggito si ripeté, bizzarra combinazione di crepitio elettrico, spigolare di frittura, raschiare di metallo e ingranaggi arrugginiti dal sospetto. Vidi l'ago sporgere di un paio di centimetri, ritirarsi e dopo un attimo sporgere di nuovo. Io feci un passo all'indietro e impugnai la pertica che mi innalzò verso il soffitto senza fare alcun rumore. A livello superiore rimasi in piedi a smaltire la paura. Alle mie spalle il capitano Bitti e altri 3 uomini giocavano a carte. Monta! Non gli piaccio. A chi? Al segugio? Ma non gli piace né dispiace niente, si limita a funzionare, fiuta le tracce, individua il bersaglio, torna a casa e si disattiva. Non è che è un ammasso di fili di rame, batterie e corrente elettrica. I sensori possono essere settati su ogni combinazione. Mm. Insomma, i dati che riguardano ognuno di noi sono immagazzinati nel registro generale. Sarebbe facile trasferire una combinazione nella memoria del segugio. E questo spiegherebbe il suo comportamento di poco fa. Lui ha reagito alla mia presenza. E chi farebbe una cosa del genere? Non hai i nemici qui, Montag? Non che io sappia. Domani faremo controllare il segugio dai tecnici. Che poi non è la prima volta che mi minaccia. Il mese scorso è successo 2 volte. Lo aggiusteremo! Non preoccuparti. No, è che io mi chiedevo che cosa pensa il segugio laggiù. Tutta la notte. Può svegliarsi e dare la caccia anche a noi. Il segugio non pensa a niente che non vogliamo. Che cosa triste. Perché quello che gli insegniamo è soltanto cacciare una preda, stanarla e ucciderla. Un peccato se è tutto quello che può provare. È un trionfo della tecnica, Montag. Un buon fucile che non manca mai il bersaglio garantisce un centro tutte le volte. Per questo io non vorrei essere la prossima vittima. E perché? Hai la coscienza sporca? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 giorni. Tutte le volte che uscivo di casa, Clarisse era lì fuori a fare qualche cosa. Un giorno la vidi scuotere un noce. Un altro era seduta su un prato a sferruzzare un maglione azzurro. 3 o 4 volte trovai un mazzo di fiori sul portico, un sacchetto di castagne e foglie d'autunno appuntate con cura ad una pagina di carta bianca attaccata alla sua porta. Ma tu perché non sei mai a scuola? Sono a sociale, dicono. Il che è strano, perché la società mi interessa e come. Ma tutto dipende da cosa si intende per stare insieme, non credi? Per me significa parlare, come con te, di certe cose. Ma mettere insieme un mucchio di persone e non farle parlare seriamente non è sociale. Un'ora di lezioni TV, un'ora di basket, di nuoto o di corsa. D'accordo, un'altra ora tra scrivere storia o dipingere. Poi magari ancora sport. Ma nessuno fa domande. Ci riempiono soltanto di risposte. Bing, bing, bing. E noi ci sorbiamo 4 ore di teleinsegnamento. Per me questa non è società. È una serie di tubi dove l'acqua entra da una parte ed esce dall'altra. Ci riducono in condizioni così pietose che per forza ti infili in macchina e vai a correre sulle autostrade. A volte sembro vecchia. I ragazzi della mia età si ammazzano a vicenda. Ma lo zio dice che non è sempre stato così. Dice che suo nonno ricordava un tempo in cui i bambini non si uccidevano fra loro. Tante volte passo le giornate in metro per sentire parlare le persone. E sa cosa ho scoperto? Cosa? Che la gente non parla di niente. Mio zio dice che tutto... lo zio dice. Beh, deve essere un uomo notevole. Proprio così. Perché? Io ho l'impressione di conoscerti da tanti anni. Perché mi piaci. E senza che voglio niente da te. E perché ci conosciamo. Mi fai sentire molto vecchio e molto paterno. Ma perché non hai una figlia della mia età, se i giovani ti piacciono tanto? Non lo so. Voglio dire, è mia moglie che non ha mai voluto bambini. Mi dispiace. Sono una stupida. No. Era una buona domanda. Hai mai sentito l'odore delle foglie vecchie? Non sanno di cannella? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni. La caserma tremò sotto il sibilo di uno squadrone di jet che nel cielo nero del mattino risuonò come un'unica nota. La guerra si avvicinava. A tutte le ore i bombardieri attraversavano il cielo in continuazione, segnando ogni momento della nostra vita. Ma perché non c'è mai nessuno disposto a parlarne? Dal 2023 abbiamo vinto 2 guerre atomiche, eppure sembra che ora il resto del mondo non ci interessi più. Ma ci divertiamo così tanto a casa nostra. 5, 6, 7 giorni. E poi Clarisse non c'era più. Io non sapevo che cosa ci fosse nell'aria, ma quel pomeriggio lei non era da nessuna parte ed era strano non vederla qua e là per il mondo. Era successo qualcosa. Cos'hai, Montag? Guardai le facce degli uomini abbronzati da 1000 incendi, veri o immaginari. Uomini il cui mestiere rendeva gli occhi lucidi di febbre. Li guardai e vidi i capelli color carbone, le sopracciglia annerite dal fumo, le guance bluastre di cenere. Niente, io pensavo all'incendio della scorsa settimana, all'uomo di cui abbiamo sistemato la biblioteca. Ecco, che fine ha fatto? Lo hanno portato a ululare in manicomio. Ma non era pazzo? Chiunque pensi di poter ingannare noi e il governo è pazzo. Io ho cercato di immaginare come sarebbe, voglio dire, se i pompieri bruciassero le nostre case, i nostri libri. Noi non abbiamo libri. Se li avessimo. Tu ne hai? No. Ah. No. Guardai alle spalle dei miei colleghi e vidi le liste di milioni di libri vietati, titoli avvolti dalle fiamme, testi che per anni erano caduti sotto la mia ascia e il pompa che non buttava acqua ma cherosene. È stato sempre come ora, le caserme, il nostro lavoro. Che razza di discorsi fai? No, volevo dire che prima delle case a prova di fuoco i pompieri impedivano gli incendi piuttosto che appiccarli, è vero? Questa sì che è bella. Suonò l'allarme e nel casotto il segugio meccanico balzò di scatto. Insieme ai miei colleghi ci calammo dalla pertica, saltammo a bordo della salamandra e partimmo mentre il vento della notte trasportava l'urlo della sirena. Era una casa a tre piani, nella parte vecchia della città, costruita nel secolo scorso, ma come tutte le case, aveva da anni un rivestimento di plastica ignifuga. Il motore della salamandra si fermò, il capitano Bitti e altri miei colleghi corsero sul marciapiede, li seguì. Abbattemmo la porta d'ingresso e afferrammo una donna che non cercò di fuggire, si limitava ad oscillare da una parte all'altra in piedi, come se le avessero dato un colpo alla testa. La così luminosa. Siate uomo, Mastro Ridley, siate uomo. Oggi, con l'aiuto di Dio, accenderemo in Inghilterra una candela così luminosa che confido non verrà mai spenta. Ma chi è Mastro Ridley? Ma che cosa vuol dire? Ridley, oggi, con l'aiuto di Dio, accenderemo in Inghilterra una candela così luminosa mentre stava per essere messo vivo per eresia a Oxford il 16 ottobre 1555. Conosco molte cose inutili, Montague. Entrammo nella casa buia e polverosa, irrompendo nelle stanze come ragazzini eccitati. Una pioggia di libri mi cadde addosso e fino a quel giorno era stato come spegnere una candela. Arrivava la polizia, copriva la bocca della vittima con l'adesivo e li infilava nelle auto scintillanti, in modo che il nostro arrivo alla casa era già vuota. Così non si faceva male a nessuno e si danneggiavano solo le cose. Ma stasera era diverso. Quella vecchia rovinava il rito. Altri libri mi caddero sulle spalle mentre alzavo gli occhi verso il piano di sopra e un libro atterrò fra le mie mani, obbediente come una colomba, sbattendo le pagine come le ali. Nella luce tremolante una pagina si aprì. Le parole, dipinte delicatamente. Nella fretta ebbi il tempo di leggere una sola riga e mi si impresse nella mente come se fosse incisa da una punta d'acciaio. Il tempo si è addormentato nel sole del pomeriggio. Lasciai cadere il libro e subito un altro mi finì in braccio. Chiusi la mano stringendo il libro al mio petto con devozione. Ad agire era stata solo la mia mano che possedeva una volontà propria, una sua coscienza. Era lei la ladra che lo nascose sotto l'ascella sudata. Kerosene! E pompammo il fluido freddo dei contenitori siglati 451 e ne spruzzammo a vagonate, inzuppando ogni libro. No, no, non potete avere i miei libri. Vieni fuori, vecchia. La donna si inginocchiò fra i libri, scorrendo i titoli dorati con le dita, mentre teneva su di me i suoi occhi accusatori. Conosci la legge? Siete uomo. Che fine ha fatto il tuo buonsenso? Ti sei rinchiusa per anni in un'autentica torre di Babele. La gente di cui parlano i tuoi libri non è mai esistita. Tu adesso vieni con noi, bruciamo la casa. Non vorrei lasciarla qui. Non vuole venire. Ma può venire con me, signora? No, no, grazie. Conto fino a 10. Signora, signora, la prego, venga con me. Voglio restare. Due. La prego, la prego, venga. Tre. La prego, venga. Quattro. Venga. Cinque. Sei. Può anche smettere di contare. La donna aprì le dita della mano e nel palmo apparve un oggetto sottile, un normale fiammifero da cucina. La mano della donna tremò sul fiammifero mentre i fumi del kerosene salivano attorno a lei. Io sentivo il libro nascosto martellare come un cuore contro il mio petto e la donna sfregò il fiammifero. Nel cuore della notte guardai Mildred. Era sveglia. Nell'aria danzava una melodia debolissima. La radioconchiglia era infilata di nuovo nell'orecchio e lei ascoltava voci lontane, in paesi lontani, con gli occhi spalancati a fissare l'oscurità. La sentì così estranea che non riuscii a credere di averla mai conosciuta. Mildred. Cosa? Scusa, non volevo farti paura. Io volevo solo sapere... Cosa? Quando ci siamo conosciuti e dove? Quando ci siamo conosciuti? Sì, la prima volta. Dov'è che ci siamo visti la prima volta? Io credo a... Non lo so. Non ricordi? Non ti agitare. Che buffo. Non ricordare dove si sia conosciuto il proprio marito o la propria moglie. E ripensai a lei sdraiata a letto qualche notte fa. Se fosse morta, io non avrei pianto. Sarebbe stata la morte di una perfetta sconosciuta. Mildred, Sì. Hai presente la ragazza di cui ti parlavo? Quale ragazza? La figlia dei vicini. Quali vicini? Dai, dai, la studentessa, si chiama Clarisse. Ah. È che io non la vedo da qualche giorno, 4 per la precisione, e tu l'hai vista? Ah, ho capito chi è. Ne ero sicuro. Lei cosa? Volevo dirtelo, ma poi me ne sono dimenticata. Dimmela adesso. Penso sia andata. Andata? La famiglia si è trasferita, ma credo che lei sia andata per sempre. Morta. No, forse non parliamo della stessa persona. È lei, la McClellan, investita da una macchina 4 giorni fa. Non sono sicura che sia morta, ma penso di sì. Non sei sicura? No, sicura no. E perché non me l'hai detto prima? L'ho dimenticato. Sì, ma è successo 4 giorni fa. Ho dimenticato tutto. La mattina dopo avevo brividi e febbre. Non puoi esserti ammalato, ieri stavi bene. No, non stavo bene. Mildred si avvicinò al letto e sentì la sua presenza. Sentì i suoi occhi velati da una specie di cataratta nascosta dietro le pupille, le labbra rosse, il corpo sottile come una mantide. Allungai la mano sotto il cuscino, il libro. Era sempre lì, dove l'avevo nascosto la sera prima. Mi porti un'aspirina e un bicchiere d'acqua? Devi alzarti. È mezzogiorno, hai dormito 5 ore più del solito. È successo qualcosa? Un incendio, tutto qua. Io ho passato una bella serata. Facendo cosa? Chiacchiere in soggiorno. E cosa c'era? Programmi. Quali programmi? I migliori mai fatti. Con chi? Lo sai, la famiglia. Abbiamo bruciato una vecchia insieme ai libri. Sono stata da Ellen ieri sera. I programmi non si vedono nel tuo soggiorno. Certo, ma è bello fare visite. E non mi chiedi di stanotte. Cosa è successo? Abbiamo bruciato 1000 libri e una donna. E allora? Abbiamo bruciato copie di Keats, Swift, Marco Aurelio. Un europeo. Qualcosa del genere. Un radicale. Non l'ho mai letto. Sì, sarà sicuramente un radicale. Mildred. Che diresti se io, insomma, se lasciassi il lavoro per un po'? Vuoi rinunciare a tutto? Dopo anni e solo perché una notte, una donna e i suoi libri... Sì, ma tu avresti dovuto vederla, Mildred. Non è niente per me quella. E i libri non doveva averli. È colpa sua. Doveva pensarci. La odio. Ti farà licenziare e di colpo ci ritroveremo senza casa, senza lavoro. Niente. Tu non c'eri. Tu non c'eri, tu non l'hai vista. Nei libri deve esserci qualche cosa. E noi non possiamo immaginare cosa spinge una donna a bruciare con la sua casa. Era una sempliciotta. Ormai è acqua passata. Non acqua, fuoco. Hai mai visto una casa bruciare? Continua a fumare per giorni. E per me questo incendio durerà per sempre. Io ho cercato di spegnerlo nel mio cervello tutta la notte. Sono quasi impazzito. Se avresti dovuto pensarci prima di fare il pompiere. E ho mai potuto scegliere? Mio nonno, mio padre erano pompieri. Durante la notte ho pensato a tutto il cherosene che io ho versato negli anni e per la prima volta mi sono reso conto che dietro ogni libro c'è un essere umano. Guarda chi c'è davanti a casa. Non mi interessa. Il capitano Bitti. Vagli incontro, ti dispiace. E digli che sono ammalato. Mi assicurai che il libro fosse ben nascosto sotto il cuscino. Sistemai le coperte sulle ginocchia e sul petto. Mildred tornò nella stanza seguita dal capitano Bitti, che si sedette in poltrona. Ho pensato di venire a vedere come sta il malato. Come l'ha saputo? Quando ti rimetterai? Domani. Dopodomani. Forse. Succede a tutti i pompieri. Prima o poi hanno bisogno di capire, vogliono conoscere la storia della nostra professione, non lo insegnano più alle matricole come facevano una volta. Che vergogna. Solo i capi pompieri la ricordano. Beh, ha avuto inizio più o meno quando la fotografia è diventata di uso comune, poi sono venuti i film all'inizio del XX secolo e la radio, la televisione, le cose hanno acquisito una massa e siccome avevano una massa sono diventate più semplici. Film, radio, riviste, libri hanno dovuto livellarsi, mi segui? Libri più brevi, condensati, riviste tascabili. I classici ridotti a 15 minuti di un programma radiofonico, compressi per riempire i 2 minuti di una rubrica, confinati nelle 10 o 12 righe di un dizionario. Ora Montag, accelera la proiezione, clicca, guarda, scorri giù, scorri là, veloce, su, giù, dentro, fuori, perché, come, chi, cosa, dove? Riassunti di riassunti, condensati di condensati, e basta frullare la testa dell'umanità con programmi che centrifugano le cose, spogliandole di ogni inutile residuo di pensiero. Perché imparare qualcosa che non serve a premere pulsanti, tirare leve, incastrare viti e bulloni? La cerniera lampo sostituisce i bottoni e all'umanità viene sottratto anche quel po' di tempo che serve a vestirsi la mattina, tempo per pensare. Mi lasci in pace! Mildred non mi diede retta e infilò la mano tra materasso e cuscino per sistemarlo. E le sue dita si muovevano verso la copertina rigida del mio libro. E quindi costruisci case con le pareti di cristallo e dentro colori lucenti che vanno su e giù come coriandoli, sangue, sherry e buon vino. E quello cos'è? Vai a sederti. E il bowling? Ti piace, vero? Sì. Sì, il golf? Sì. Il basket? No. Più sport per tutti. Adesso però consideriamo le minoranze nella nostra civiltà, d'accordo? Più numerosa è la popolazione, maggiore la quantità di gruppi minoritari. Non bisogna pestare i piedi agli amanti dei cani, o dei gatti, ai medici, agli avvocati, ai mormoni, ai cinesi di seconda generazione, agli svedesi, agli italiani, ai tedeschi, ai texani. I personaggi di questo libro, di questa commedia, non fanno riferimento a nessun pittore, filosofo, cartografo realmente esistito. Più grande è il mercato, Montag, meno hai voglia di sollevare controversie. I libri si sono trasformati in risciacquatura di piatti. E non è stata un'imposizione del governo, no. Non c'è stato nessun editto, nessuna dichiarazione o censura, almeno all'inizio. E allora perché i pompieri? Un libro è come un'arma carica nella casa del vicino. Brucialo, Montag. Togli le munizioni dall'arma. Chiediti cosa vogliamo più di tutto in questo paese. La felicità, non è vero? Voglio essere felice, dice la gente. E noi cerchiamo di fare in modo che lo sia. Alla gente di colore non piace il piccolo negretto sambo? Beh, noi lo bruciamo. I bianchi provano un certo disagio a leggere La capanna dello zio Tom? Noi lo bruciamo. Qualcuno ha scritto un libro sul rapporto tra il tabacco e il cancro ai polmoni. I produttori di sigarette piangono. Bruciamo il volume. Dai alla gente concorsi a premi in cui basta conoscere le parole delle canzoni o le capitali degli stati. Riempila di informazioni innocue, rimpinzala di fatti e si sentirà intelligente. Serenità, Montag. Pace. Bruciare sempre, bruciare tutto. Il fuoco splende, il fuoco pulisce. C'era una ragazza dai miei vicini. È scomparsa. Credo che sia morta. Io non ricordo nemmeno la sua faccia, ma era diversa. Clarice McClellan. Sì. Abbiamo una pratica sulla sua famiglia. Li abbiamo sorvegliati attentamente. Ereditarietà e ambiente giocano strani scherzi. La ragazza era una bomba orologeria. Non le bastava sapere come si fa una cosa, no. Voleva sapere perché. Beh, se continui a chiederti il perché di tutto, diventerai infelice sul serio, Montag. Poveretta. Meglio per l'essere morta. Devo proprio andare adesso. La lezione è finita. È importante che tu ricordi chi siamo, Montag. I ragazzi della felicità. Happiness Boys. Abbiamo le dita infilate nei buchi della diga, tienile ferme. Non permettere che una cascata di malinconia sommerga il nostro mondo. Un'ultima cosa. Almeno una volta nella sua carriera il pompiere prova curiosità. Cosa c'è scritto nei libri, si domanda. Bene, Montag, credimi, perché ai miei tempi io ne ho letto qualcuno, tanto per vedere di cosa si trattava. I libri non dicono niente. Va bene. Ma che succede se un pompiere senza voler far niente di male, si porta accidentalmente un libro a casa. Un errore. Naturale. Curiosità, basta. Nessuno si scalda troppo per un fatto del genere. Permettiamo al pompiere di tenere il libro 24 ore. Se alla fine non l'ha bruciato, veniamo a trovarlo e lo bruciamo per lui. Certo. Bene, Montag. Guarisci. Ti assicuro che ci mancheresti. Lo guardai allontanarsi nella sua macchina, giallo fuoco, a forma di scarafaggio. Poi mi voltai verso Mildred. Non andare al lavoro oggi è stato solo il primo passo. Io non voglio andarci mai più. Stasera comunque vai, vero? Io ho la spaventosa sensazione che mi piacerebbe spaccare tutto e ammazzare tutti. Quando mi sento come te, mi piace guidare veloce. Arrivo a 180 e sto una meraviglia. A volte guido tutta la notte, poi torno e tu non te ne sei neanche accorto. È divertente andare in campagna. Metti sotto i conigli, qualche volta un cane. Fatti un giro. Adesso no. Dio, è una cosa più grande di me. Io non so bene che cosa sia. Io so che sono maledettamente infelice. E sono furioso. E non so il perché. Mi sento obeso, mi sento pesante, come se avessi ammucchiato un sacco di cose che nemmeno conosco. Io potrei persino cominciare a leggere i libri. Ti metterebbero in prigione? No? Devo mostrarti qualcosa che ho nascosto da circa un anno e senza sapere il perché. Presi una sedia e la portai all'ingresso, vicino alla porta, vi salì e allungai le mani verso la griglia del condizionatore. La tirai via e cominciai a estrarre libri, piccoli, grandi, gialli, rossi e verdi. Mi dispiace, io l'ho fatto senza pensare. E Mildred arretrò come se avesse davanti una colonia di topi usciti dal pavimento. Poi, con un gemito, afferrò un libro e corse all'inceneritore della cucina. No. Fermati. Per favore. Fermati. Noi non possiamo bruciarli. Io voglio sfogliarli. Almeno una volta. E poi, se quello che dice il capitano è vero, li bruceremo insieme. Se mi ami, riuscirai a sopportare tutto questo per uno o due giorni al massimo. Dopo sarà finita. Te lo prometto. Bene, da dove cominciamo? Vediamo che cos'è questo. Si calcola che in differenti occasioni 11.000 persone abbiano affrontato la pena di morte piuttosto che accettare di rompere le uova per la punta. Che significa? Niente. Niente? No, aspetta un momento, ricominciamo da capo. Null view, direzione null view. Direzione null view. Sono uno stupido, pensavo in metropolitana. L'espressione della mia faccia ha cominciato a irrigidirsi, sì, ma quando? E il mio corpo? La notte in cui ho urtato il flacone delle pillole al buio. Come avere urtato una mina. Ma forse quell'uomo poteva aiutarmi. Sì, io avevo ritrovato il suo indirizzo nella mia agenda, sotto la voce indagini eventuali. Faber, il nome era sottolineato. Io avevo indagato sul professore un anno prima, ma non l'avevo denunciato. Speravo di ritrovare la mia vecchia faccia, le mani che avevo prima e anche il mio sorriso. Presi il libro da sotto la giacca e lo aprii davanti agli altri passeggeri della metropolitana che mi spingeva nei sepolcri sotterranei della città. Quella sera l'avrei riconsegnato a Betty, ma io dovevo impararlo a memoria, ma le parole mi uscivano dalla testa. Osservate i gigli del campo. Silenzio, per favore. Osservate i gigli del campo. Come non lavorano. Ti prego, silenzio, per favore. Allora, osservate, i giri del campo che non lavorano, i giri non lavorano. Silenzio, per favore, vi prego, silenzio. Potete fare un po' di silenzio che non è qui. Osservate, i giri del campo, silenzio, silenzio. Silenzio! Mi guardavano tutti, tenendosi a distanza. Io, il pazzo, con un libro in mano aperto in metropolitana. Erano gli stessi passeggeri che fino a un momento prima avevano battuto i piedi al ritmo del dentifricio Denam, del denti dental detergente Denam. Il dentifricio, dentifricio, dentifricio, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. I passeggeri che avevano appena ripetuto le parole dentifricio, dentifricio, dentifricio. La radio installata sul treno mi rovesciò addosso una tonnellata di musica di stagno, argento, cromo e ottone. Null view, fermata, null view. Chi è? Sono Montag. Cosa vuole? Mi faccia entrare. Non ho fatto niente. Sono solo. Lo giura? Sì. La porta si aprì lentamente. Faber si affacciò e mi sembrò vecchio, fragile e impaurito. Sembrava che non uscisse da anni. Poi notò il libro sotto il mio braccio e non sembrò più tanto vecchio. Quante copie della Bibbia rimangono in questo paese? Non so di cosa parla. Mi dica quante copie. Nessuna. A parte quella. Dove l'ha presa? L'ho rubata. Lei è coraggioso. Me la dia, la prego. Dio. È passato così tanto tempo. Ed è bella come la ricordavo. Lo sapeva che i libri odorano di noce moscata e di spezie di paesi lontani. Mi piaceva annusarli da ragazzo. Montag, Montag. Lei ha di fronte a sé un vigliacco. Per molti anni ho capito quello che sarebbe successo, ma non ho fatto niente. E quando alla fine hanno creato la struttura che serve a bruciare i libri, cioè voi, ho solo brontolato 2 o 3 volte e alla fine mi sono arreso. Ora è troppo tardi. Io voglio che lei mi insegni a capire quello che leggo. Come ha fatto a svegliarsi? Chi le ha tolto il fuoco di mano? Non lo so. Non lo so. Abbiamo tutto quello che può farci felici. Ma non siamo felici. Ci manca qualche cosa. Io mi sono guardato intorno e la sola cosa che manca sono i libri che ho bruciato in tutti questi anni. No. Non sono i libri quello di cui lei ha bisogno, ma le cose che una volta erano i libri. Quello di cui ha bisogno può cercarlo ovunque riesca a trovarlo. Lo cerchi nei vecchi film, nei vecchi dischi, negli amici di un tempo. Lo cerchi nella natura. Lo cerchi in se stesso. I libri non erano altro che dei ricettacoli in cui mettevamo le cose che avevamo paura di dimenticare. Non c'è nulla di magico nelle pagine in sé. La magia era nel modo in cui cucivano le toppe dell'universo per ricavarne un vestito che fosse adatto a noi. Sono 3 le cose che ci mancano. Primo, sa perché un libro come quello è così importante? Perché è un prodotto di qualità. Che vuol dire qualità? Che quel libro ha pori, ha dei lineamenti, sosterrebbe l'indagine di un microscopio, sarebbe in grado di trovare la vita sotto il vetrino. Ora vede perché i libri sono così odiati e temuti, perché mostrano i pori sulla faccia della vita. Ecco la prima cosa di cui abbiamo bisogno: qualità e spessore dell'informazione. E la seconda? Tempo libero, ma che sia anche un tempo per riflettere. Non basta sedere in una stanza dove le 4 pareti del televisore non ti consentono di discutere e ti gridano cosa pensare. E i libri ci aiuteranno? Ah, solo se ci sarà garantita la terza cosa. Il diritto all'interazione tra le prime 2 cose, il tempo e la qualità. Ma non credo che un vecchio come me e un pompiere amareggiato come lei possano fare molto. Io posso prendere i libri? Ah, certo, correndo un rischio, sì. Beh, questo è il bello di morire. Se non hai più niente da perdere, corri tutti quanti i rischi che vuoi. Ecco un pensiero interessante formulato senza averlo letto. Ci sono cose come questa nei libri. Perché io oggi ho pensato che se i libri valgono davvero qualcosa potremmo farne qualche copia in più. Aspetta, potremmo? Lei e io? No. Lasci che le spieghi il mio piano. Se insiste con questa storia dovrò chiederle di andarsene. Ma non le interessa? Il solo modo per farmi ascoltare discorsi simili sarebbe bruciare prima il corpo dei pompieri. Per esempio, se, e sottolineo se, mi suggerisse di stampare delle copie in più e nasconderle nelle case dei pompieri in tutto il paese in modo da seminare il panico e il sospetto fra quei piromani. Pensa che sia un piano che può funzionare? Io penso che sia un piano insidioso. Ho un elenco delle abitazioni dei pompieri. Ah, bene, lei, io e chi altro appiccherebbe i fuochi? Ma non lo so, non ci sono professionisti come lei, ex scrittori, storici, linguisti? Sì, morti o moribondi. Più sono vecchi e meglio è, passeranno inosservati. Pochi vogliono essere ribelli al giorno d'oggi. E di quei pochi la maggior parte come me è spaventata. Montag, lasci che sia la guerra a spegnere le famiglie. Dovrà esserci qualcuno pronto quando scoppierà. E chi? Gente che cita Milton? Che conosce a memoria Sofocle? L'umanità sarà impegnata soltanto a raccogliere pietre da tirarsi addosso, Montag. Vada a casa. Quindi non le importa più niente? Mi importa tanto che sto male. E non vuole aiutarmi? Buonanotte, Montag. Presi la Bibbia e cominciai a strappare le pagine una dopo l'altra. Idiota, che fa? Non lo faccia! E chi può fermarmi? Sono un pompiere, se voglio io la brucio vivo. Non lo farebbe mai. Invece sì. Ma però la prego, smetta di strappare il libro. Non mi faccia sentire ancora più stanco. Cosa vuole? Che mi aiuti. E va bene, va bene. Almeno ha dei risparmi. Qualcosa, perché? Me li porti. Conosco l'uomo che stampava la carta intestata del college mezzo secolo fa. Potremmo cominciare a produrre qualche copia. Nel frattempo scoppierà la guerra e ci darà la spinta di cui abbiamo bisogno. Un grappolo di bombe basterà a zittire le cosiddette famiglie che si affacciano come sorci clandestini dalle pareti delle case. Solo una settimana fa spruzzando cherosene con la mia pompa. Io pensavo che fosse divertente. Quelli che non sono capaci di costruire finiscono sempre per dar fuoco alle cose. Può aiutarmi stasera con mio superiore? Mi serve un ombrello per ripararmi dalla pioggia. Venga con me. Faber aprì la porta della camera da letto e mi condusse in un piccolo ambiente dove oggetti metallici, fili sottilissimi, molle e bobine erano posati su un tavolino. Prese un piccolo oggetto verde, ma è come una radioconchiglia. Ah, è molto di più, perché ascolta. Se la mette in un orecchio, io resterò qui a scaldarmi le ossa e sentire quello che succede alla centrale dei pompieri senza correre pericoli. Vada in caserma, io sarò con lei, sentiamo quello che ha da dire il capitano Bitti. Potrebbe diventare uno di noi. Si preparava la guerra. Si capiva dal cielo che sembrava stesse per cadere sulla città, tramutandola in polvere di gesso, dalla luna, rossa come fuoco. Alle 9 di sera tornai a casa. La famiglia era riunita in salotto di fronte agli schermi accesi. Con Mildred c'erano la signora Phelps e la signora Bowles. Su una delle pareti una donna sorrideva e beveva contemporaneamente succo d'arancia. Sulle altre pareti una ripresa a raggi X mostrava il pericoloso viaggio della bevanda nello stomaco della donna felice. Poi, senza preavviso, la stanza ricollò come un razzo tra le nuvole e si tuffò in un mare verde dove pesci azzurri divoravano pesci rossi e gialli. Poi tre repliche animate del clown bianco cominciarono a strapparsi gambe, braccia a vicenda tra ripetuti scrosci di risate. Cos'era la famiglia? Avevo ancora Faber nelle orecchie. Spensi l'interruttore delle pareti, le immagini scomparvero in un mulinello come se qualcuno avesse risucchiato l'acqua da una gigantesca boccia di pesci impazziti. Mildred e le sue amiche si voltarono fissandomi con irritazione e disgusto. Quando pensate che comincerà la guerra? Mio marito è stato richiamato dall'esercito proprio ieri. Ma dice che sarà una guerra lampo. Sì, ma ne sono sicuri, eh? 48 ore poi tutti a casa, parola d'ordine, guerra lampo. Muore sempre il marito di un'altra. Ah, sì, proprio così. Comunque, sapete ragazze, non ho mai conosciuto un uomo morto in guerra. Magari è buttato da un palazzo. In guerra no, mai. Mai, no. Sapete, io e Pete ci siamo fatti una promessa, niente lacrime. Siamo entrambi al secondo matrimonio, allora, restiamo indipendenti. Ce lo siamo sempre detto. Lui mi ha fatto giurare che se dovesse morire in guerra io devo continuare la mia vita senza piagnistei. Mi devo solo riposare e non pensarci più. Tanto figli non ne abbiamo, no? No, ma poi non ne vale la pena tutto quel dolore per fare dei figli, vederli anche crescere. No. Ecco, forse l'unica cosa un po' carina nel fare dei figli è che potrebbero assomigliare. Guy, non mi pare il caso. Cos'è quel libro? In caserma state facendo un corso di aggiornamento? Pensavo che oramai i manuali di istruzioni fossero tutti digitali. Questo? Ma questo è un libro di poesie. Montag. Mi lasci in pace. L'avverto, cerchi di controllarsi. Ma le sentite? Ha sentito come parlano? Montag, stia zitto, imbecille. Se continuerò con questa storia, toglierò la comunicazione. Cosa vuole dimostrare? Io voglio spaventarle a morte, voglio farle uscire fuori di testa. Con chi parli adesso? Montag, ascolti, c'è una sola via d'uscita. Faccia vedere che è stato uno scherzo. Vada all'inceneritore a muro e butti quel libro. Ragazze, una volta all'anno i pompieri hanno il permesso di portare un libro a casa. Serve a mostrare come quella roba possa far impazzire la gente. Stasera mio marito vuole sorprenderci leggendo qualcosa per mostrare come le cose fossero confuse, in modo che le nostre sagge testoline non dovranno pensare mai più a certe sciocchezze. Non è vero, amore? Dica di sì. Sì. Leggi quello. Legga. Qual è il titolo, amore? La spiaggia di Dover. Oramai altro non sento che la sua nostalgia. Un lungo ruggito che si ritira nell'alito del vento notturno. Ahi, amore, restiamoci fedeli, perché il mondo che appare davanti a noi come una terra di sogni così vario, magnifico e nuovo, in realtà non ha gioia, amore o luce. Tutto bene. Clara? Che piantala, per favore. Clara, che cosa c'è che non va? Io non lo so. Veramente non lo so. Hai visto? No, hai visto? Basta. Era questo che volevi dimostrare? Basta, io vado a casa. Ragazze, se volete potete venire a vedere la famiglia da me, ma basta. Io a casa di questo pompiere non metterò mai più piede. Vada! Vada a casa! Vada a pensare al primo marito da cui è divorziato. Al secondo, che si è ammazzato in un'autogetta, al terzo, che si è fatto saltare le cervella, vada! Vada a casa e pensi a tutti gli aborti che ha avuto e rifletta su come è potuto succedere e che cosa ha fatto lei per impedirlo. Vada! Le porte sbatterono e la casa rimase vuota. Io restai solo nella sera invernale, tra le pareti del soggiorno color neve sporca. Tornai in cucina e presi i libri da dove Mildred li aveva nascosti. Alcuni erano già spariti, probabilmente lei si era già preoccupata di bruciarli. Portai i libri rimanenti in cortile sul retro e li nascosi tra i cespugli. La caserma era silenziosa. Sfiorai la pertica di ottone e salì nell'aria cupa. Il cuore mi batteva forte. Ecco che arriva uno strano animale. Un animale che in tutte le lingue si chiama allo stesso modo. Idiota. Betty allungò una mano con il palmo verso l'alto, in attesa di mio dono. Gli diede il libro. Senza neanche guardare il titolo, Betty lo gettò nel cestino dei rifiuti e accese una sigaretta. Bentornato, Montag. Spero che resterai con noi adesso che la febbre ti è passata. La pecora è tornata all'ovile. Siamo tutti pecore, che una volta o l'altra si sono smarrite. La verità è la verità. Sempre la stessa. Oh, dolce nutrimento di conoscenza trasmessa dolcemente, come ha sottolineato Sir Philip Sidney. Ma d'altra parte sono come foglie, le parole dove ve ne han troppe. Di senso è raro che abbondino le coppe. Alexander Pope, tu cosa ne pensi, Montag? Non lo so. Attento. E di questo? Un po' di cultura è perniciosa. Colà il picciol sorso intossica la mente che la bevuta lunga schiarisce immantinente. Pope, stesso componimento. Il che dove ti colloca, Montag? Montag? Tra gli ubriachi. Leggi poche pagine e precipiterai nel vuoto. Sei pronto a far saltare il mondo con un bang, a calpestare donne, bambini, ad abbattere l'autorità. Lo so, perché ci sono passato. Io sto bene. Non starla a sentire, cerca solo di confonderti. Fai attenzione. Mi piace il tuo sguardo impaurito. Poi suono l'allarme. Il capitano Bitti, io e altri due pompieri saltammo nel vuoto e afferrammo la pertica all'ultimo momento. Una volta a bordo girammo l'angolo in un fragore di tuono e di sirene. Il capitano sedeva al posto del conducente, eppure Bitti non guidava mai. Eccoci! Tutto bene? Qualcosa non va, Montag? Alzai gli occhi e Bitti mi stava fissando. Ci eravamo fermati di fronte a casa mia e in tutte le case si accesero le luci, si aprirono le porte, tutti uscirono per assistere all'arrivo dell'unico. Guarda che faccia che hai! Chi ti ha ridotto così, quella piccola scema? Fiori, farfalle, pogliucci, tramonti belli, un quarto di luna, belle porcherie! A cosa ti sono serviti? La porta di casa si aprì e Mildred corse fuori con una valigia stretta tra le dita. Il taxi a forma di insetto si avvicinò al marciapiede. Mi passò davanti correndo, il viso imbiancato di cipria e la bocca senza rossetto. Mildred! Famiglia mia! Mildred. Povera Mildred. Famiglia, è tutto perduto. Mildred, non sei stata tu a denunciarmi, vero? Tutto perduto. E Mildred spinse la valigia nell'insetto. Salì a bordo e il mezzo sgommò via, scomparendo in lontananza. Montag, mi senti? Montag, scappa, corri via da lì. Entrammo in casa. E io non sentivo più il pavimento sotto i miei piedi. Bitti azionò l'accenditore, guardando affascinato la fiammella arancione. Cosa rende il fuoco così attraente? A qualunque età, cosa ci piace delle fiamme? La bellezza del fuoco sta nel fatto che distrugge responsabilità e conseguenze. Voglio che tu faccia il lavoro da solo, Montag. Non con il cherosene, ma il lavoro completo, con il lanciafiamme. La casa è tua, le pulizie le devi fare tu. Montag, scappa. No. Sei pronto? Pronto. Fuoco. Una scia fiammeggiante balzò verso i libri, mandandoli a sbattere contro la parete. E tutto arse in un impeto di luce, calore e passione. Passione maggiore di quella che io avrei mai creduto. Bruciai qualunque testimonianza della mia vita in quella casa, insieme ad un'estranea che mi avrebbe dimenticato il giorno dopo. E sentii zampillare il fuoco dentro di me, lacerarmi fino a farmi a pezzi. Il fuoco era la cura migliore. E la casa crollò su carboni ardenti e ceneri nere. Erano le 3:30 di mattino. Lo spettacolo era concluso. È stata mia moglie a denunciarmi. Sì. Che sciocchezza recitare una poesia con tanta sfacciataggine. Montag, devi andartene da lì. Betty mi colpì. Il bossolo verde da cui Faber sussurrava cadde in terra. Betty lo raccolse, se lo avvicinò all'orecchio, senza infilarlo del tutto. Montag. Oh. Montag. Beh, allora c'è dell'altro che non sospettavo neppure. Rintracceremo la sorgente e troveremo il tuo amichetto. Tolsi la sicura al lanciafiamme. Gli occhi di Betty si dilatarono impercettibilmente. E mi rivolse il più affascinante dei suoi sorrisi. Su, fai il tuo discorso. Perché non provi a rottarmi un po' di Shakespeare? Non c'è terrore, Cassio, nelle tue minacce, perché sono così difeso nell'armatura della mia onestà che mi passano accanto come vento ozioso che io non rispetto. Che te ne pare? Avanti, povero letterato di seconda mano. Spara! Non abbiamo mai bruciato i veri colpevoli. Dammi quel lanciafiamme, Montag. Aprì il fuoco. E Bitti, Bitti cadde a terra come una fiamma che si torceva tra l'erba, una bambola di cera carbonizzata. Il segugio arrivò avanzando oltre il prato, muovendosi con tale scioltezza da sembrare una nuvola di fumo. In un balzo mi fu addosso il lago con la procaina verso di me. Lo investì con un fiore di fuoco che lo avvolse in un alone di petali giallo e arancio. Sentii il segugio che mi afferrava una gamba e per un attimo vi affondava l'ago, poi il fuoco fece esplodere la belva dall'interno. La strada era buia e deserta. La casa bruciata. Quando provai ad appoggiare la gamba, una pioggia di aghi mi salì da polpaccio fino al ginocchio. Mi avviai claudicante nella strada buia alla notte. Risuonava di voci e fasci di torce elettriche. Procedetti al buio e sfociai in un'arteria deserta. Poco più avanti si stagliava una stazione di servizio. Se volevo avere una possibilità, io dovevo rendermi meno visibile, togliermi la divisa, se volevo raggiungere la casa di Faber. Gli elicotteri della polizia picchiavano verso terra per passare le strade a setaccio. Raggiunsi la stazione di servizio, mi lavai le mani, la faccia, poi ripresi la strada. Attraversai l'arteria deserta e imboccai un vicolo buio. Faber. Faber. Sono stato uno stupido. Io non posso restare muto, devo andare. Soltanto l'altra sera era tutto normale, adesso io sto negando. Lo sai che è scoppiata la guerra. È meglio che tu vada al fiume. Seguile e cerca i binari della ferrovia. Oggi la maggior parte delle linee ferroviarie sono abbandonate, ma le rotaie, anche se arrugginite, ci sono ancora. Ho sentito che esistono accampamenti di fuoriusciti. Li chiamano campi nomadi. Io mi sento vivo per la prima volta in tanti anni. E credo che sia perché finalmente sto facendo la cosa giusta. Correvo. Correvo e sentivo arrivare un nuovo segugio, come l'autunno freddo e veloce. Gli elicotteri erano sempre più vicini e io continuai a correre e imboccai un viottolo e poi ancora un'altra strada fino all'odore del fiume. Quando lo raggiunsi lo toccai per assicurarmi che fosse reale e mi incamminai nell'acqua verso il centro fino a non toccare più e fui trasportato nell'oscurità e mi immersi completamente, lasciandomi trasportare dalla corrente. Ora c'era solo il fiume mite che mi portava lontano e io ascoltai il mio cuore che rallentava. Aveva voluto morire. Bitti aveva voluto morire. Era rimasto immobile davanti a me. Sì, immobile. Che cosa strana desiderare così ardentemente di morire. E di colpo sentì le gambe che sfioravano rocce e sassi. Il fiume mi aveva portato a riva. mi incamminai. Subito il mio piede urtò qualcosa che mandò un suono cupo. Tastai il terreno con le dita binari. Erano i binari, la ferrovia che arrugginiva nella terra. E poi dopo mezz'ora vidi un fuoco davanti a me. Quando fui a pochi passi, nascosto tra gli arbusti, il movimento della fiamma mi parve strano, perché quel fuoco non distruggeva, ma scaldava. E vidi mani allungate, mani senza braccia, nascoste dalle tenebre, facce immobili che acquistavano vita solo quando guizzava la fiamma. E io non avevo mai pensato al fuoco in questi termini. Non avevo mai creduto che potesse dare, oltre che prendere. Quando gli uomini cominciarono a parlare, io non capii quello che dicevano. Erano voci che conoscevano la terra, gli alberi e la città che si estendeva oltre i binari. Voci che parlavano di tutto. Poi uno degli uomini alzò gli occhi e mi vide. Vieni. Vieni, Montag, è tutto a posto, sei il benvenuto. Io mi chiamo Granger. Come sa il mio nome? Abbiamo seguito la caccia. Quando le telecamere dell'elicottero sono tornate a inquadrare la città, abbiamo pensato che dovevi esserti immerso nel fiume. Ora vanno a nord, ma è tutta una finta. Li hai seminati, ma non possono ammetterlo. E sanno che lo spettacolo deve avere un finale lampo. Troveranno un capro espiatorio, secondo me. Lo avvisteranno nei prossimi 5 minuti. Granger accese il televisore portatile. Sullo schermo un uomo svoltò l'angolo. Il segugio meccanico apparve improvvisamente nell'inquadratura e i fari dell'elicottero proiettarono intorno all'uomo colonne luminose. L'innocente rimase impietrito con la sigaretta tra le dita. Fissò il segugio senza sapere che cosa fosse. E forse non lo seppe mai. La telecamera si tuffò in basso, il segugio balzò in aria con un tempismo perfetto. L'ago scattò e la telecamera piombò sulla vittima insieme al segugio. La vittima fu afferrata dalla belva e dall'obiettivo in un'unica stretta micidiale, come la morsa di un ragno. E lui urlò. E Granger spense la TV. Bentornato dal regno dei morti. E benvenuto tra noi. Questa è la signora Clement, Frankenstein di Mary Shelley. Il dottor Simmons è Pensieri, Meditazioni, Ricordi di Marco Aurelio. Qui abbiamo la professoressa West, per noi Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. Beh, il reverendo Padover è Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ovviamente. Quanto a me, beh, io sono la Repubblica di Platone, ma abbiamo anche Schopenhauer, Einstein, Machiavelli. Siamo pezzi di storia, di letteratura, filosofia. Se distruggono noi, la conoscenza muore per sempre. Siamo la voce che grida nel deserto. Vuoi unirti a noi, Montag? Sì. Che puoi darci? Niente. Niente. Cioè, io credevo di avere una parte dell'Ecclesiaste, forse dell'Apocalisse, ma io ora non ho più niente. L'Ecclesiaste? Beh, l'Ecclesiaste andrebbe bene. Dov'era? Qui. Ah. Cosa c'è? Non va bene? No, no, più che bene, direi che è perfetto. Ma l'ho dimenticato. No, non si dimentica niente. Sì, io ho già provato a ricordare. Non sforzarti, verrà quando servirà. In quanti siete? Migliaia. Vagabondi fuori, biblioteche dentro. Non è stata una cosa pianificata, semplicemente ognuno di noi aveva un libro che gli sarebbe piaciuto imparare a memoria. Beh, un giorno forse i libri potranno essere riscritti e quelli che li hanno imparati saranno chiamati a recitare ciò che sanno. Ci fu un boato e la guerra cominciò. E finì in quel momento e noi ne vedemmo solo un debole lampo, 3 lunghi secondi prima che le bombe esplodessero. E io vidi un immenso pugno di metallo sospeso sulla città lontana. La prima bomba esplose e io caddi a terra, ricordo io ricordo Chicago. Sì, la Chicago di molto tempo fa, Mildred e io ci siamo incontrati là. E poi l'esplosione sollevò l'acqua in enormi spruzzi e piegò gli alberi. Io mi rannicchiai su me stesso cercando di tenere gli occhi chiusi e l'eco della morte arrivò solo dopo. Io ricordo qualcos'altro. Che cosa? Qualcos'altro? Una parte dell'Ecclesiaste, ricordo. Una pagina dell'Apocalisse. Ripeti subito, prima di dimenticarla. E da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 frutti. E da una parte all'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 frutti. E da una parte all'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 frutti. Il silenzio ricadde insieme alla polvere e lentamente ci alzammo. Guardai il fiume. Andremo sul fiume. Guardai i vecchi binari. Andremo lungo i binari. E poi un giorno, quando ci saremo abituati, la realtà passerà tra le nostre mani e attraverso la nostra bocca. Guardare il mondo, guardare quello che è fuori, oltre la punta del mio naso. La città sembra un mucchio di farina, non c'è più niente. Mi chiedo quanti sapessero che stava arrivando, quanti sono stati davvero colti di sorpresa. Qualcuno accese un fiammifero e lo avvicinò a un pezzo di carta. Lo infilò sotto un po' di foglie e aggiunse dei rametti umidi che all'inizio sfrigolarono, ma alla fine presero fuoco e il fuoco crebbe mentre il sole sorgeva e smettemmo di guardare in direzione della città attratti dalle fiamme. Come una fenice. Che cosa? Prima di Cristo c'era questo stupido uccello che si chiamava fenice. Ogni 200 o 300 anni costruiva un rogo per morirvi bruciato. Ogni volta che bruciava, rinasceva dalle sue ceneri. E noi facciamo lo stesso in continuazione da 10.000 anni. Non siamo importanti, non siamo niente. Un giorno forse il carico che portiamo potrà essere utile a qualcuno, ma anche quando disponevamo dei libri, non sapevamo davvero mettere a frutto quello che ci offrivano. Ci incamminammo. Guardai il fiume, il cielo e i binari arrugginiti e mi chiesi che cosa avrei detto quando fosse venuto il mio turno. C'è una stagione per ogni cosa, sì, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per tacere e poi un tempo per parlare. Certo, ma che altro? Qualcosa. Una cosa. E da una parte all'altra del fiume c'è un albero di vita che dà 12 frutti ogni mese. I frutti servono a guarire le nazioni. Sì, è questo ciò che dirò a mezzogiorno, quando saremo arrivati in città. Con Lisa Ferlazzo-Natoli della compagnia La Casa d'Argilla per presentare l'11ª edizione di IF, Invasioni dal Futuro, Dark Ages. A Roma, al Teatro India, dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Ben trovata! Buonasera a tutti e a tutti, grazie dell'invito. Spieghiamo cos'è questo progetto che seguiamo dagli inizi. Sì, lo seguite dagli inizi e pensavo ora, mentre dice l'11ª edizione, 10 anni più uno in qualche modo, no? Quindi anche questo progetto segue la traccia che è iniziata nell'epilogo di 2 anni fa e proseguita l'anno scorso, anche un po' di un cambiamento di rotta e di ragionamenti di Invasione dal Futuro, perché sono sempre più mischiati innanzitutto i due livelli delle scritture e dei temi intorno a quella cosa che chiamiamo fantascienza e a quelle altre scritture oppure temi che potremmo definire della narrativa dell'orrore, intesa nel senso più alto, più vasto e anche insomma, psicanalitico e sociale. E quindi mi verrebbe da dire che nel mezzo c'è proprio come soglia il laboratorio che poi avrà un'apertura spettacolare di Fabio Condemi, Giona, dedicato a Stalker e a tutte quelle zone intermedie, insomma, fra noi e il mondo, tra la costruzione dell'identità dell'uomo e il tutto altro, le mutazioni e anche le deformazioni, se mi posso permettere, che i consessi sociali determinano nella psiche e nelle vite. Questo è il primo appunto che mi sento di tirare fuori da questi due anni. Questa edizione come si caratterizza? In termini strettamente spettacolari riprendiamo, perché ha fatto una sola replica l'anno scorso, questo gioiellino che serve in una soglia, che è Consigli per sopravvivere in natura, titolo in omaggio a Margaret Atwood, dedicato a un insieme di racconti, di quattro racconti, alle grandi madri della fantascienza e o dell'orrore, perché ci sono la Atwood, c'è la Bradley Sheldon, c'è la Le Guin e c'è la Butler, che appunto non è un caso sono donne, quando attiviste, quando femministe, quando ecologiste, quando tutto assieme come la Le Guin, che non hanno smesso di interrogarsi in maniera straordinaria poi nei loro scritti fantascientifici sull'incontro con l'altro, l'identità, i problemi di costruzione societaria, identitarie. E questo è uno degli aspetti che caratterizza più IF, è questa composizione quando noi componiamo racconti, che abbiamo cercato, alcuni non sono più editi, alcuni sono introvabili per più di un anno e mezzo. Quindi in termini nostri legati a noi nella compagnia c'è questo, ma c'è un prologo che è L'ombra dello scorpione, parte seconda. Per la prima volta dall'anno scorso Invasione dal futuro ha affidato a una compagnia giovane, il collettivo Fontana, con la regia di Caterina Dacci, la drammaturgia di Flavio Murialdi, appunto uno spettacolo, perché in questo caso è proprio uno spettacolo, non un melologo, all'interno di IF. Dacci e Murialdi hanno scelto L'ombra dello scorpione, proprio sulla scorta anche di una riflessione post-pandemica e anche come vanno ricomposti le società dopo che succedono degli tsunami di questa natura. E la cosa molto interessante, hanno deciso di fare una prima puntata l'anno scorso, nel 2023, una seconda puntata quest'anno, e immettendo però nella seconda puntata tutti gli indizi necessari a che il pubblico non abbia problemi di comprensione in caso non avesse visto la prima, esattamente con i principi di scrittura della serialità. Quindi abbiamo L'ombra dello scorpione, che va più tecnicamente verso quella cosa che potremmo definire una letteratura d'orrore. Consigli per sopravvivere in natura, che è veramente interstiziale, perché l'ultimo racconto di Atwood, Palla di pelo, è un racconto di orrore femminile e metafisico ad un tempo, c'è cioè una sola protagonista femminile. E poi approdiamo, ed è proprio il caso di dirlo, facciamo il passo al lato, letteralmente come il cavallo, a un oggetto lungamente covato e amato, che è Clara il sole di Ishiguro. E sicuro, per chi non lo conoscesse, premio Nobel, ha scritto quel meraviglioso straziante romanzo che è Non lasciarmi, che muove intorno al tema della clonazione, la clonazione di organi, di parti del corpo per le classi abbienti, e quindi insomma chi ha diritto a definirsi umano e chi no. Questo è il suo grande tema, come misuriamo il nostro anche organicamente, psichicamente, emotivamente essere umani. In Clara il sole Ishiguro racconta la storia narrata in prima persona di un AA, un amico artificiale, quindi una forma molto evoluta di androide, Clara. Questi androidi vengono venduti ad altissimo livello a tutti i ragazzi delle famiglie, delle classi padrone, ragazzi che sono potenziati addirittura in questa società di un futuro prossimo venturo, per avere un allenamento, un amico artificiale che stia esclusivamente con loro, qualcuno che veramente gli stia accanto e li formi. Clara è una un po' particolare, perché abbiamo, di più che va avanti il romanzo, l'impressione che sia l'unica che conosce veramente all'interno di un gruppo di uomini e che fa esperienza, soprattutto in termini emotivi. Ishiguro è riuscito anche a restituire in qualche modo una costruzione sintattica completamente nuova, perché fa parlare appunto questo androide amico artificiale. E l'arco di Clara sarà questa vicinanza a questa ragazzina, che è Josie, e quello che farà Clara attraverso il sole, per quello che lei crede, quindi è un androide che crede in qualcosa, ma non in termini religiosi, è un patto di credenza con la vita e con il mondo. E poi dove Clara, in qualche modo, avendo fatto il suo arco di conoscenza, quindi apparentemente il finale è un po' cupo, però allo stesso tempo Clara è molto felice, ma non vi dico perché. Aggiungo in ultimo, proprio perché amiamo la follia alla radio, che come insomma molti spettatori che hanno seguito il sanno, c'è la nostra piattaforma Radio Issa, e che domenica 4, in conclusione di tutto il festival, la radio sarà dal vivo, a ingresso libero per tutti gli spettatori che vorranno venire, e che faremo degli estratti molto ampi di un nostro lavoro del cuore, che è La Guida Galattica per autostoppisti, con l'orchestra dal vivo e con tutti gli attori che abiteranno Radio Issa nei modi più pensati. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma sono sul sito della Casa d'Argilla. Undicesima edizione di IF Invasioni dal Futuro, Dark Ages, a Roma al Teatro India dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Lisa Ferlazzo Natoli della compagnia La Casa d'Argilla. A presto! A presto e grazie ancora. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandro Fabrizi, direttore artistico della Festa di Teatro Ecologico, che sarà a Roma dal 25 luglio al 2 agosto 2024. Ben trovato. Ben trovato a te. Eccoci qua. Ti chiedo subito un bilancio dell'edizione di quest'anno a Stromboli, che poi si sposterà a Roma. Quest'anno a Stromboli è stato bello. Le prime cose che mi vengono in mente è l'affluenza delle persone agli eventi e agli incontri, che erano veramente tante persone, quindi una grande partecipazione, un grande affetto da parte dell'isola, degli isolani, sempre più grande, e poi la partecipazione straordinaria di Iddu, che con le sue fumate chilometriche ci ha tenuti svegli, tenuti sul chi vive, e quindi sì, è stata una bella edizione, è andata molto bene. A Roma cosa porterete? A Roma principalmente esponiamo la piazza Amleto di Shakespeare, che è il testo più stratificato della storia del teatro, e noi lo buttiamo a Piazza Sempione, e quindi sono molto curioso proprio di vedere cosa ne farà la piazza di questo testo, che è stato ritradotto per noi da Nadia Fusini in un adattamento, una selezione, insomma una riduzione del testo, anche se durerà un po', e lo mettiamo in piazza e vediamo che succede. E intorno a questa proposta di Amleto, di cui alcune scene le abbiamo già presentate a Stromboli, ma insomma a Piazza Sempione sarà tutta un'altra cosa, perché il nostro lavoro è proprio quello di ambientare i testi in luoghi sempre diversi, per cui cambia la messa in scena, se così si può dire. Ci sarà il 26 alle 18 alla sala consiliare del terzo municipio, Piazza Sempione, appunto, un incontro proprio con Nadia Fusini, che parlerà della sua traduzione del testo e di Amleto. E poi ci saranno dei laboratori, degli incontri di Metodo Linklater, degli incontri per i bambini, per i più piccoli, e due percorsi, un percorso poetico guidato da Patrizia Menichelli e un altro percorso tra il Parco dell'Aniene e le strade del terzo municipio guidato dall'architetto paesaggista Emanuele von Norman. E poi degli incontri di yoga al Parco Bolivar. Quindi una serie di attività che ruotano intorno a questa proposta di Amleto. Questo progetto è la seconda annualità della Festa di Teatro Ecologico a Roma, che è un progetto vincitore dell'avviso pubblico dell'estate romana 2023-2024, è curato dal Comune di Roma. Amleto a Piazza Sempione con le modalità del teatro ecologico, quindi niente amplificazione, niente luci artificiali. Lo facciamo in due orari diversi, alcune sere alle 19, alcune sere alle 21.30. Lasciamo accese le luci della piazza, ma non aggiungiamo altre luci elettriche, useremo soltanto dei LED per illuminare appunto quando fa buio, e nessuna amplificazione. Aggiungo che abbiamo le musiche originali di Gianluca Mesiti e Giovanni Ciaffoni, eseguite dal vivo da Giovanni Ciaffoni, e i costumi di Marina Sciarelli e gli elementi scenici di Emanuele von Norman e Pino Genovese. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Si trova tutto sul sito della festa, Festa di Teatro Ecologico. Festa di Teatro Ecologico a Roma, con l'Amleto in piazza, dal 25 luglio al 2 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Fabrizi, direttore artistico. A presto! Grazie a te, a presto. Buona giornata. con Fabio Galadini, direttore artistico della 12esima edizione del Roma Fringe Festival dal 15 al 28 luglio 2024. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi di Radio Onda Rossa. Spieghiamo cos'è. È una grande festa di teatro indipendente, una grande comunità che esiste da 12 anni e che, come gli anni scorsi recenti, lo facciamo in estiva dentro i teatri che, attenzione, ci ospitano, perché il Fringe, come tutti sanno, non percepisce un solo euro di contributo pubblico, quindi grazie alla stima, al riconoscimento di questi teatri che noi possiamo fare il Fringe. E questi teatri sono quest'anno, oltre al Vascello, che è la nostra casa naturale, ci sono le due sale dello spazio Diamante e poi la finale la facciamo al Teatro Indie. E quindi dobbiamo ringraziare, oltre a Manuela Kusterman e il suo staff, naturalmente Alessandro Longobardi e il nuovo direttore del Teatro di Roma, Fusco. Questo è una grande vetrina che noi offriamo sempre ai giovani compagnie, giovani drammaturgie, e cerchiamo di esporli, diciamo, sul piano nazionale. E quindi, insomma, ci diamo da fare in questo senso, perché crediamo che sia molto difficile per molti di loro avere un palcoscenico autorevole dove mostrare il proprio lavoro. Come si caratterizza l'edizione 2024? Come sempre noi facciamo una selezione, e quest'anno c'è stato anche un incremento significativo di iscrizioni per tutto il territorio nazionale, c'è un'ottima presenza romana, ma noi siamo orientati sempre nel verificare, appunto, nuove scritture, nuove proposte anche di transito fra discipline diverse, comunque sempre relative al teatro. E i temi quest'anno non sono a senso unico come le scorse edizioni, e quest'anno sono molto più vari. C'è la pace, c'è la questione della globalizzazione, della comunicazione, ci sono temi molto forti del tempo che viviamo, cioè che tematizzano il tempo che viviamo. E c'è una caratteristica che abbiamo recuperato quando lo facevamo alla Pelanda, perché alla Sala Diamante vanno in scena contemporaneamente sei spettacoli in due sale, la sala Black e la sala White. Abbiamo ripreso un modo di farlo e questo, secondo noi, aumenta il flusso di pubblico, le persone stanno più in comunità, ci incontrano di più. E ecco, un'altra cosa importante quest'anno, che è un'iniziativa promossa per la prima volta quest'anno, grazie al patrocinio morale, diciamo, del primo municipio centro, noi facciamo il 29, proprio il giorno dopo la chiusura, in un centro di aggregazione giovanile a Via della Penitenza, facciamo un incontro aperto, libero a tutti, in cui cerchiamo di far dialogare queste compagnie che hanno partecipato con operatori, critici, produttori, in modo tale che magari anche un'altra ulteriore opportunità di relazione per questi giovani ragazzi. Quanti sono nel complesso gli spettacoli e le compagnie da dove vengono? Come sempre sono 21 compagnie in concorso. Il 40% di queste sono romane e le altre vengono da molte regioni d'Italia. Naturalmente abbiamo dovuto fare una selezione, perché quando sono arrivati i progetti praticamente erano in tutta Italia. Però qui ci sono Tacaglia, Sardegna, Campania, Sicilia, Emilia Romagna, Lombardia. Insomma, è un po' un ventaglio di proposte che arrivano un po' da tutta Italia. Sì, siamo soddisfatti perché, ripeto, abbiamo avuto un incremento di adesioni quest'anno, significa che questo nostro lavoro, il nostro impegno a tutto vantaggio delle compagnie, diciamo così, dei progetti marginali, sta riscuotendo consenso. Tutti i riferimenti internet per il programma? Sul nostro sito www.romafringefestival.it, e poi si possono vedere nei vari siti del teatro, lì c'è anche la possibilità di acquistare online i biglietti. 12esima edizione del Roma Fringe Festival dal 15 al 28 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabio Galadini. A presto! Grazie, grazie a tutti voi, grazie. Venite, vi aspettiamo. Con Alessandro Di Somma, co-direttore artistico dell'ottava edizione di Pillole, tutto in 12 minuti, sistemi non convenzionali di selezione teatrale, a Roma Fortezza Est dal 16 al 25 luglio 2024, ben trovato. Grazie, grazie mille Federico, grazie a tutti. Spieghiamo cos'è. Non è nient'altro che il nostro modo di selezionare gli spettacoli della stagione prossima del nostro spazio Fortezza Est. Invece di selezionare gli spettacoli tramite progetto, su mail o tramite colloqui, noi li vediamo dal vivo per 12 minuti e insieme agli spettatori di quartiere, amici e addetti ai lavori, cerchiamo i progetti più interessanti o più adatti alla stagione prossima nel nostro teatro. Quindi cerchiamo di conoscere di persona le compagnie che faranno parte poi della stagione 24-25. Quante proposte sono arrivate? Tantissime proposte, quasi 150, e ne abbiamo selezionate una 45, più sono arrivate 40 proposte di drammaturgie che noi invece poi lavoreremo durante l'estate, e che diventeranno quindi 5 drammaturgie che faranno parte di una finale. E il primo premio sono 500 euro e poi una di queste 5 drammaturgie andrà direttamente in scena nella stagione 25-26. Quindi è un premio parallelo oltre a quello di pillole della stagione, quella ufficiale. Cioè abbiamo anche un premio di drammaturgia in cui leggiamo insieme ad altri amici drammaturghi i testi che ci sono arrivati, ne selezioniamo 5 che fanno una sorta di finale, e tra questi 5 uno diventerà lo spettacolo della prossima stagione prodotto da noi. Come ti è sembrata nel complesso la proposta? Molto varia, anche se come ogni anno abbiamo delle tematiche sempre preponderanti, quindi ogni anno ci accorgiamo qual è il trend della stagione prossima un po' in tutti i teatri, perché arrivandoci tante proposte, alcune hanno dei temi che sono di strettissima attualità: l'intelligenza artificiale, il rapporto con la tecnologia, la solitudine, insomma cose che in questo momento, provenendo da una pandemia che ci ha fatto riflettere su questo, si stanno trasformando in questi nuovi linguaggi, linguaggi nuovi tecnologici, e poi il rapporto dell'uomo solo con la tecnologia. Quindi c'è molto su questo, quindi è interessante che noi attraverso le pillole che ci arrivano ci rendiamo anche conto di dove sta andando un po' la drammaturgia italiana, anche quello, perché la maggior parte dei testi sono di drammaturgia contemporanea. 10 giornate, come saranno composte? Avremo dai 5 o 6 pillole al giorno e cominciamo alle 8, in modo da finire presto, verso le 9:30. Daremo alle persone che verranno delle brochure con le spiegazioni degli spettacoli, vedranno le pillole e poi, volendo, ci facciamo un piccolo dibattito di quello che abbiamo visto, ci raccontiamo un po' le impressioni. Hanno una brochure su cui possono scrivere anche le loro impressioni su quello che hanno visto, per darci una mano alla fine delle pillole, per capire anche cosa è piaciuto di più e cosa magari è più interessato. Che poi la cosa bella di pillole non è che vedi uno spettacolo completo, ma è la proposta di spettacolo, il progetto. Quindi si useranno tantissimi linguaggi diversi, dalla spiegazione pure semplice a una mise en place a 12 minuti di spettacolo, i primi 12 scelti. Insomma è anche interessante vedere le compagnie che scelgono cosa far vedere del proprio lavoro in quei 12 minuti, in cui uno deve cercare di pensare più alla sostanza che alla forma. Questo è quello che diciamo a tutte le compagnie: non pensate alla bella scenografia, alla bella luce, pensate ai contenuti del progetto. Qual è la provenienza delle proposte? Da tutta Italia, di tutte le età, di tutta Italia. Diciamo che noi tendiamo sempre ad attirare compagnie giovani, under 35 come si dice adesso, ma abbiamo anche proposte di artisti affermati che ci fa molto piacere che vengano a presentarsi da noi. Ed è bello che abbiamo tante cose nuove e anche alcune compagnie che hanno già partecipato, quindi ci fa piacere avere degli aficionados, ma anche delle nuove compagnie. Questo ci fa capire quanti gruppi esistono in Italia, quanti gruppi si formano ogni anno, perché veramente su le quasi 200 proposte che ci arrivano ogni anno, veramente più del 90% sono compagnie che non conosciamo, e quindi ci fa piacere sentirle e vedere quanto bisogno c'è in Italia, a Roma, di spazi che offrano possibilità alle compagnie per esibirsi, che c'è sempre meno possibilità per le giovani compagnie, anche meno giovani, di portare in scena il proprio lavoro. E questa è una cosa su cui dobbiamo un po' ragionare, e questo lo facciamo spesso con i nostri colleghi di Roma, con i nostri colleghi affini per scelte artistiche. Vorremmo fare sempre di più, purtroppo l'economia e gli spazi che abbiamo sono quelli, però insomma per quello che abbiamo diamo veramente il massimo. Qual è il peso del pubblico del quartiere? Ha un grande peso perché ci chiede, e sono molto curiosi di sapere cosa ospiteremo per la stagione prossima. Però diciamo che cerchiamo di farci influenzare anche un po' dalle nostre sensazioni, anche su quello che vorremmo vedere l'anno prossimo, anche sugli addetti ai lavori. Abbiamo amici di altri spazi romani che vengono a vederlo e vengono spesso tutte le serate, anche per capire un po' cosa si vedrà l'anno prossimo anche nei loro spazi, perché spesso sono compagnie che hanno partecipato magari ai bandi di diversi teatri romani, e quindi anche quello è interessante, perché magari ci dobbiamo le compagnie. O ce le scambiamo, quindi è uno scambio di idee e di artisti che sono una cosa virtuosa. Non siamo gelosi delle cose che facciamo, cerchiamo di metterle in rete, come si dice, anche se è una parola abusatissima. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? www.fortezzaest.com. Le serate cominciano alle 20, il costo del biglietto è 5 euro. Riposiamo soltanto lunedì e per il resto saremo da martedì a domenica e poi da martedì a giovedì in queste 9 recite, in queste 9 giornate di spettacolo. Ottava edizione di Pillole, tutto in 12 minuti, sistemi non convenzionali di selezione teatrale a Roma Fortezza Est dal 16 al 25 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Alessandro Di Somma. A presto! Grazie Federico, grazie mille a tutti, grazie mille. Con Rita Azzeri, codirettrice artistica della 16ª edizione di Nurarcheo Festival a Villanova Forru dal 13 al 21 luglio 2024, ben trovata. Ben trovati a te e ai nostri radioascoltatori. Spieghiamo cos'è questo festival. È un progetto che nasce per valorizzare i siti archeologici attraverso lo spettacolo dal vivo. Per noi è fondamentalmente un atto politico, perché partiamo dal presupposto che la tutela del paesaggio sia fondamentale per l'esistenza dell'uomo sulla terra, e questo non sembri un paradosso, perché credo assolutamente che sia così. Noi in Sardegna in questo momento viviamo una situazione piuttosto drammatica, perché la transizione ecologica che si vuole fare e portare avanti, e che senz'altro è indispensabile, e vede comunque il nostro territorio, la nostra isola, presa d'assalto da una quantità immensa di progetti che vorrebbero riempire l'isola di pale eoliche alte oltre 200 metri da collocare in luoghi che sono di assoluto interesse paesaggistico e naturalistico, addirittura davanti alla chiesa di Saccargia e al nuraghe di Barumini, che sono insomma riconosciuti come proprio patrimonio del UNESCO e dell'umanità. E quindi il festival vuole riportare l'attenzione anche su queste tematiche. Portare lo spettacolo dal vivo in questi luoghi significa ricordare che la presenza dell'uomo sicuramente incide sul paesaggio, perché è chiaro che anche un nuraghe a suo tempo ha rappresentato un'opera di antropizzazione del territorio. Non significa che l'uomo debba scomparire dalla terra, anzi, ma bisogna trovare delle forme di dialogo rispettose, perché altrimenti diventa improponibile. Come si caratterizza questa edizione? Ha un programma fittissimo che ha un cuore, che abbiamo definito il maschio proprio della torre nuragica al comune di Villanova Forru, dove l'area archeologica è estesa, il cuore è Genne Maria, ma poi ci sono anche il villaggio di Pine Meiolo, che è proprio all'interno del paese. Sono dei nomi di tutto rispetto quelli che animano il nostro festival: da Iaia Forte, che è la codirettrice anche artistica del progetto, Valentina Cervi, Elena Bucci, Marco Martinelli, Ermanna Montarari, Saverio La Ruina, tornano i Motus, un cartellone molto ricco, Giorgina P, stavo dimenticando, che ha cuore appunto a Villanova Forru, ma poi si sposta anche in altri luoghi del territorio circostante, come appunto le capanne del villaggio nuragico, e questi luoghi sono Baressa, Villa Grande Strisagli, Tortoli, Carbonia e Genoni. Com'è stata la scelta artistica? In questo caso abbiamo tenuto conto sempre dei linguaggi e della capacità delle compagnie di dialogare con i luoghi, che per noi è fondamentale. Chiaramente in area archeologica noi facciamo sì che non vengano montate strutture, ma che i lavori vengano ripensati e adattati in base alle caratteristiche dei luoghi. Ad esempio Giorgina P per l'occasione propone uno spettacolo itinerante sotto forma di radiodramma, per cui gli spettatori faranno il percorso di visita ascoltando appunto l'opera, e così via insomma per gli altri. Marco Martinelli e Ermanna Montanari sono da noi adesso in residenza artistica, e proprio sui luoghi stanno creando un'opera con i partecipanti a questo laboratorio. Quindi si cerca, ecco, di creare un filo conduttore attraverso il lavoro di questi artisti, che sono, diciamo così, specializzati qua quasi, grazie alla loro sensibilità, a creare un ponte tra l'opera drammaturgica e lo spazio che la ospita. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito internet è www.ilcrogiuolo.eu e la pagina Facebook è Nurarcheo Festival. Sedicesima edizione di Nurarcheo Festival a Villanova Forru dal 13 al 21 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Rita Azzeri. A presto! Grazie a voi, a presto, grazie. Con la giornalista Eva Giovannini per presentare il suo graphic novel L'ultimo partigiano, in uscita il 19 luglio 2024. Ben trovata! Grazie, ben trovati! Di cosa si tratta? È una storia pressoché inedita, non meglio, è una storia nota per quanto riguarda la morte di questo partigiano, si chiamava Lanciotto Gherardi, le cui gesta finali della vita si trovano in tutte le cronache della resistenza livornese e toscana, ma nessuno aveva mai raccontato la sua vita. La sua morte era stata raccontata, ripeto, in tutte le resoconti dell'epoca, perché era morto il giorno della liberazione della città di Livorno. Il 19 di luglio del 1944 Livorno fu liberata dai nazifascisti e lui, che era tra i leader della cosiddetta brigata Oberdan Garibaldi, non riuscì a entrare nel centro della città perché alle porte a sud di Livorno fu mitragliato per giunta da fuoco amico per un errore di un soldato americano. Quindi tutte le cronache narrano la sua fine, ma nessuno aveva mai raccontato la sua vita. Io ho avuto la fortuna di conoscere il figlio di questo partigiano, che nel momento della morte aveva 17 anni, era un ragazzo sufficientemente grande per avere dei ricordi ben nitidi. Alfredo si chiamava il figlio, morto novantenne di Covid, e io gli feci una lunga intervista l'anno prima, nel 2019, e poi adesso, in occasione degli 80 anni della liberazione della città di Livorno, ho ritirato fuori l'audio di questa intervista, mi è nato un graphic novel. Cosa ti ha impressionato di questa figura? Sono andata a casa del figlio convinta di ricevere la testimonianza in qualche modo drammatica di un eroe e abbiamo fatto un sacco di risate, perché Lanciotto Gherardi era un uomo pieno di ironia. Anche il suo antifascismo era un antifascismo irriverente, anarchico, sempre più proteso alla burla verso il fascismo, i fascisti, i picchiatori, la maleducazione, la prepotenza del regime, piuttosto che all'indole violenta. Quindi lui poi sì, ha imbracciato le armi, resistente, un partigiano resistente, ma per tutta la vita gli aneddoti che mi ha raccontato suo figlio erano aneddoti buffi, irriverenti, sarcastici. E quindi questo mi ha colpito di lui, e questi episodi erano perfetti per essere, dal mio punto di vista, raccontati in immagini. Come è venuta appunto l'idea del graphic novel? Sbobinando questa intervista mi sono resa conto che me la immaginavo disegnata. Più che un libro, più che un podcast, più la riascoltavo, più mi immaginavo dei disegni. Poi le cose nascono spesso per contaminazione, quindi io un giorno ho parlato con questo artista, di fumettista, per me bravissimo, che si chiama Tommaso Eppensteiner, che tra l'altro ha già sceneggiato a fumetti la storia della città di Livorno, e gli ho raccontato questa vicenda. Lui si è illuminato, l'ha fatta sua, l'ha condivisa dal minuto zero, e quindi da questa contaminazione tra la mia idea, le parole del figlio e la penna, la mano eccezionale di Tommaso, è nato il graphic novel, che poi ho avuto la fortuna di vedere impreziosito dalla testimonianza di Corrado Augias, perché non volevo che fosse un libro che parlasse di Livorno, no? Perché la resistenza è stata nazionale, grazie a Dio, e quindi il fatto che questo partigiano, Lanciotto Gherardi, fosse livornese non significa niente, cioè è un dato biografico, ma volevo allargare il portato memoriale di questa storia, e quindi Corrado Augias mi ha omaggiato di questa intervista per l'introduzione, in cui ha raccontato la liberazione di Roma secondo i suoi ricordi personali di bambino, ma ricordi nitidissimi, e la sua personale lettura dell'eredità di quella che lui ha definito la meglio gioventù, quindi i partigiani che hanno combattuto per la nostra libertà, e ha anche detto che secondo lui un modo eccezionale, anzi usato la parola formidabile, per ricordare quelle gesta è anche il fumetto, perché arriva ai più giovani e arriva a tutti. Com'è stato il lavoro tra te e Tommaso? Io ho fatto una sceneggiatura non balloon per balloon, cioè io non ho dettato a Tommaso Epstanger i singoli testi di ogni balloon, ma ho sceneggiato gli episodi, quindi ho raccontato gli episodi che Alfredo Gerard mi aveva messo a parte, li ho in qualche modo resi vividi, immaginati, li ho sceneggiati tipo come fosse una sinossi, episodio per episodio, in tutto sono 7, che ovviamente è la parte relativa al funerale e alla morte, e a quel punto Tommaso li ha immaginati e ci ha messo le vignette, il balloon, il dialogo, che a quel punto è stato da me poi revisionato, ma sulla base appunto di un'intuizione fumettistica di Ebbe Strang, quindi è stato a tutti gli effetti un lavoro a quattro mani. Che tipo di diffusione avete pensato? Sarà sicuramente in libreria, è già acquistabile su Amazon e poi vedrà in autunno anche la diffusione in edicola, credo con il Tirreno, e vediamo se anche altri quotidiani aderiranno. In ogni modo avrà questa triplice fruizione in qualche modo, quindi Amazon, libreria, edicola con i quotidiani, e io spero che viaggi molto nelle scuole. Approfitto per ringraziare l'editore Luciano Tirinnanzi di Paesi Edizioni, che ha creduto da subito in questo progetto e ha messo a disposizione insomma la casa editrice con il loro know-how per insomma tutto il lavoro di supporto e di revisione. Il graphic novel L'ultimo partigiano, in uscita venerdì 19 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla giornalista Eva Giovannini. A presto! Grazie a voi, grazie. Siamo arrivati all'agenda per gli appuntamenti della settimana di teatro, ma anche di eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Eccolo qua. A Roma questa settimana continua e sarà così fino al 4 agosto la rassegna teatri d'Arrembaggio, e cioè è al Teatro del Lido di Ostia per l'ottava edizione, all'ingresso gratuito, lo dico a voce molto forte, perché insomma non capita sempre. E andremo a vedere lo spettacolo Canto 33 di Federica Seddaio venerdì 26 luglio, quindi tra pochi giorni, mentre invece il nuovo spettacolo di stand-up comedy Giulia Nervi sarà in scena sabato 27 luglio con il titolo Hashimoto ha fatto anche cose buone, con qualche riferimento chiaramente a un po' la vulgata classica rispetto a colui che non voglio neanche nominare, che pare abbia fatto delle cose buone, ma chissà, mi sa proprio di no. Tra l'altro 27 luglio, anche nei giorni un po' cardinali insomma di certi anniversari capovolti, ma insomma abbiamo pensato di andare avanti fino all'inizio di agosto, quindi insomma chiudendo un po' i consigli della settimana con un bisettimanale, e quindi per quanto riguarda il nostro Teatro d'Arrembaggio andrei anche un po' oltre, perché il 2 agosto andremo a vedere Abbasso Daniele Parisi 2024 con appunto Daniele Parisi, che porta questa sorta di best of, diciamo, sui suoi personaggi, sui suoi monologhi. E poi il 3 agosto invece Chiara Becchi Manzi porta l'ultimo capitolo della trilogia delle terapie, precisamente Terapia Intensiva, Beata Ignoranza, e questo è appunto il programma del Teatro dei Grandi. Ma vado a segnalare pure che questa settimana Diviso per Zero, Francesco Picciotti, porterà domenica 28 alle 19 Le mani di Efesto, per un pubblico anche di ragazzi, di giovani, di piccolini. Per tutte le età è segnato anche il 4 di agosto la compagnia Giglio Prosperi con Il racconto della principessa guerriera, e questo è per quanto riguarda teatri d'Arrembaggio. Ma andiamo avanti perché continua fino al 25 luglio, quindi ancora qualche giorno. Pillole alla Fortezza Est, insomma la rassegna di spettacolo da 12 minuti allo spazio indipendente di Tortugnastara, per valutare anche gli spettacoli che verranno poi ospitati, prodotti, coprodotti nella stagione successiva. Quindi, insomma, un'idea interessante per continuare a guardare teatro anche l'estate. Mentre questa settimana conclude, il 28 luglio, il Roma Fringe Festival, che abbiamo salutato, la sua apertura abbiamo salutato la scorsa settimana, e questa settimana invece ci spostiamo di teatro perché, insomma, a parte la serata finale verrà proposta al Teatro India, in cui, insomma, verranno proposti i tre spettacoli che arriveranno in finale dalle ore 19 in poi. Per quanto riguarda appunto il programma, se la prima settimana ci siamo soffermati sullo Spazio Diamante, questa settimana invece ci sposteremo, se non vado errato, sì, esattamente, ci sposteremo, ci siamo già spostati, a dire la verità, al Teatro Vascello, che si unisce allo Spazio Diamante. Quindi, diciamo, sempre sul sito del Roma Fringe Festival, io invito ad andare a vedere un po' la complessità, insomma, della proposta, perché ci sono troppe cose per ricordarle tutte insieme in radio, sto facendo un elenco enorme e forse poco utile, ma appunto tra le varie segnalazioni dico l'ultima, appunto, l'ultima cosa, che chiuderà il 23 di luglio, quindi domani sera, la presentazione degli spettacoli, e poi appunto il 28 al Teatro India ci sarà la serata finale, verranno scelti in questi giorni gli spettacoli finalisti che verranno presentati tutti insieme dalle ore 19 al Teatro India il 28 di luglio, che sarà appunto domenica. Allora, poi ancora andiamo a segnalare stasera alle 20:30 L'amore delle tre mele arance, il laboratorio integrato Piero Gabrielli, che porta questo testo di Carlo Gotti appunto al Teatro India, e appunto, insomma, come ogni anno una riscrittura del laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, adattato da Roberto Gandini, la prima delle 10 fiabe teatrali di Gozzi, scritta e rappresentata a Venezia durante il carnevale del 1769, insomma, invece ora diventa qualcosa di molto diverso, e lo andremo a vedere questa sera alle 20:30 al Teatro India. Segnalo che dal 25 luglio fino al 2 agosto inizierà la festa del Teatro Ecologico, ma a Roma, con Amleto in piazza, a ingresso libero, Piazza Funzione e dintorni. Quindi chi sta da quelle parti, Monte Sacro, Conte Nomentano, orecchie aperte. Spettacoli sempre realizzati senza corrente elettrica, senza microfoni, luci, senza costruzioni come palchi e scenografie, ma utilizzando la morfologia del luogo. Questa è un po' la missione del Teatro Ecologico, che appunto è un festival che viene fatto, che è stato fatto ormai, insomma, settimane fa, a giugno, all'isola di Stromboli, e quindi c'è anche uno sbarco romano per questo Amleto in piazza, appunto dal 25 luglio fino al 2 agosto, poi condito da vedere poi gli orari, che insomma sono vari, comunque sarà principalmente alle 19 oppure alle 21:30, ma ci sono anche dei laboratori gratuiti, yoga nel parco, insomma un sacco di belle cose, un percorso poetico, il teatro della natura. Quindi invito ad andare a vedere il sito festaditeatroecologico.com per vedere bene, meglio il programma completo, insomma, con tutti i vari appuntamenti di diverse tipologie. Mentre invece sotto l'Angelo di Castello, che sì, insomma, andrà avanti, ma questa settimana, il 24 luglio, ovvero sia domani, per due repliche, alle 19 e alle 21, porterà uno spettacolo che io ho visto e amato, Hamelin, liberamente ispirato alla fiaba Il pifferaio magico dei fratelli Grimm, con la regia, la drammaturgia di Tonio De Nitto, il drammaturgo Riccardo Spagnuolo, le musiche di Paolo Coletta, lo dico perché sono nomi importanti, e l'interpretazione davvero eccellente di Fabio Pinella. Sarà appunto nella cornice di Castel Sant'Angelo, rassegna curata da Anna Selvi, ed è uno spettacolo molto particolare che dialoga molto con le diverse generazioni, la storia del pifferaio di Hamelin, insomma, la conosciamo, il pifferaio che incantò, venne accusato, insomma, di incantare i bambini, insomma, si apre a mille possibili interpretazioni, e però viene poi schiacciato dal paese, Ma c'è un ma in realtà, perché c'è un meccanismo molto particolare. I bambini e gli spettatori adulti avranno una differenza rispetto alla percezione dello spettacolo. Ecco, la dico così, non voglio dire altro, vi invito solo domani ad andare alle 19, alle 21 al Castel Sant'Angelo, per Sotto l'Angelo di Castello. Ultima segnalazione che facciamo è che la settimana prossima, dal 29 luglio, insomma, a parte che è lunedì e noi ci sentiamo dal martedì, ma dal 29 luglio fino al 4 agosto, l'undicesima edizione di IF, Invasioni dal Futuro, Dark Ages 2024. La Casa d'Argilla al Teatro India presenta questa nuova idea, su questo nuovo progetto dedicato alle scritture dai temi della fantascienza, l'undicesima edizione, mamma mia, ricordo come ieri la prima, quindi evidentemente c'è qualcosa si installa nella memoria e poi fluttua nel tempo, chissà magari che qualche autore di fantascienza proprio di questo mio disorientamento si sarà occupato. Lo andremo a scoprire appunto la settimana prossima, con laboratori, quello con Roberto Scappetti, quello con Fabio Condemi, con Andrea Pizzalis, il laboratorio arte intensivo ICOS di sound design teatrale condotto da Pasquale Citera, insomma ci stanno un sacco di cose molto belle, delle installazioni. E in prima nazionale la seconda parte del progetto biennale dedicato a Stephen King, L'ombra dello scorpione, un progetto di Collettivo Fontana che insomma continua il pensiero di La Casa d'Argilla di allargarsi, diciamo, a giovani compagnie, giovani collaboratori, artisti emergenti, ecco, si dice così. E segnalo sempre poi il 31 luglio apre al pubblico l'installazione sonora Hereafter di vari autori realizzati in collaborazione con i centri sociali degli anziani e del quartiere, mentre invece 1 e 2 agosto prosegue la prima nazionale di Clara e il Sole di Kazuo Ishiguro, la novità curata appunto quest'anno la Casa d'Argilla, e si tratta di un lavoro sull'amicizia, sulla complessità del cuore umano. Si parla di Clara, robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare, che promette di dedicare tutti i suoi straordinari talenti a Josie, la ragazzina che la sceglie come AA, la sua amica artificiale. Beh, insomma, nella scrittura di Ishiguro andremo a vedere quello che è il nostro futuro, chissà, il nostro futuro possibile, e a volte ci spaventa, a volte ci attrae, ma insomma, non possiamo non andarci incontro. E con questo è tutto. Ciao, arrivederci, a prestissimo. Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.